e stiamo un buon trabacco per dopo, dai. Sì, ciao, okay. Attenzione, canale 10. C'è qualcuno qua? Per potermi spingere, ma non ve la posso, fa troppo male. Vabbè, sì, te lo credo, se ci vai inclinate, lo fa. Ui, ui, dimmi, piano piano già ti rimetti a posto. L'importante è poi stare, essere vivi, poi il resto già ci rimettiamo in sesto. Poi piano piano, sono cose peggiori. Sulla barattina ne ha portato verso a Sassari su 45, visto che c'è il Belgio in preparazione, i camionisti ci sono dal Belgio e io sentite anch'io, arrivo anche qua. Io ho provato a chiamarli uno, ma è un casino, hanno parlato tra loro, quindi non me ne fotte nulla, non me ne fotte più di tanto. Poi su 45 ma riesce dentro una tutta carne. Io arrivo senza problemi, sì. E ho voglia, segnale 9, 10, 5. Va bene, va bene. Questa è una capsula scadente, deve essere. no, fai nulla la capsula, oh la cappellì. Ci ho provato io di tutti i colori, non ho messo di capsule in alta lì. Lì c'è una capsula a 150 ohm, cioè è uguale identica a un come si è una capsula vera e propria. Un altro parlante è me. Addirittura gli ho messo quella del VHF, non va bene, ma con quella ho Tom. L'unica cosa va bene è il circuitino del microfono del MP40 o 45, l'originale, che è quasi uguale a quello lì, preciso, c'hai due pulsantini, va bene, dell'up down e poi c'è anche l'attacco della alimentazione, hai capito? Quindi in pratica usa l'alimentazione di quell'apparecchio lì che ti alimenta il microfono al condensatore. Io capo più dove cavolo lo posso. Ah vabbè, dai, lo lasciamo così questo. E tanto a me mi serve perché ho omologato e basta. Il 3009 mi si è rotto. Sì. E può andare via, che è avvenuta gente. Ciao! Ciao, ci sentiamo, buona passeggiata a Porto Torres. Magari. Vabbè. Ci sentiamo alle prossime, salutami a tutti lì in casa. Avanti Natali. Che lo sento basso. Non ti bacio, non mi viene in mente. Di Porto Torres, però che lavora lì al porto. A far cuffia, adesso mi viene in mente il nome. Eugenio deve essere forse. Eugenio, sì, bravo. Quello che mi ha guardato il Saturn, ecco. Non ce n'è più quel Saturn, ecco. No, il Saturn Echo l'avevo venduto, 150 euro a Piero Drago. L'avevo sistemato, era una cazzata, altrimenti da cambiare e c'era lui. L'ho venduto 150 euro quando, capito, dopo un po' di tempo. C'era lui tuttora, c'era il Saturn Echo. Capito, va bene, va. L'importante è che viene questo apparecchio. L'avevo qua, cazzo, stavo usando come omologato il 3009, ma mi si è rotto. Se vedete che era un apparecchio difettoso, l'hanno messo mano e magari il venditore non lo sa neanche che l'hanno messo mano e mi si è rotto purtroppo. Quello si chiama un apparecchio bello. Questo ne ha messo uno Luca poco fa, 150 euro. Uguale identico al tuo, il 2009 con l'omologato 150 euro, poi c'ha il, come si chiama, quell'apparecchio americano 200 euro, quello che c'aveva Gianni, capito? Io l'apparecchio grande con tutti quegli smitter, quello in legno, adesso non si vede il nome. E dove ci stai dicendo? Ehi. Ah, Luca, ma chi Luca? Luca Pippe? Via. Caffa. Ah, cioè 150 euro sta vendendo, il 2009. Uguale, vedi, ma quello che c'è. No, ma ci comparai. Già ce l'ho l'apparecchio per poter modulare. Ho venduto tutto questo qui adesso e quell'altro che mi avevo comprato. Adesso me lo uso. Tanto adesso anche se mi supo si attacca al caso. Tu la disturbare torna, mi sembra un po' strano, cazzo, sei agganciato all'antenna tua, vuoi che? Allora disturbi anche in casa tua. Negativo, non disturbo in casa mia. Da lui disturbo perché c'ha un decoder di 15 anni fa e il televisore che è rotto. Per cui l'ho preso e mi ha tagliato il cavo che andava all'antenna mia. Adesso si arrangia. Ah, quindi c'ha del colo, è tutto imballato, va, e a parte il televisore che non serve un cazzo. che gli hai lasciato l'antenna tua, almeno va e se la compra nuova. Adesso non vede più niente. Guarda, e se suona qui di quello scuro, a chi fa la giusto di quello, non si va più via, viene e occhio, perché mi ha fatto salire in nero. Sono andato con la forbice e tacchi ho tagliato dal partitore che avevo messo. E quindi aveva preso un cazzo. E adesso non vede niente, no, se hai tagliato con la forbice hai fatto bene. Una volta fanno un favore, hai visto, nelle conseguenze. Anch'io ho fatto la stessa cosa qui nel palazzo, ho fatto un favore di comprargli l'antenna, quella HD, quella grande, e capito, ho arrivato quel vento forte, ma ho spaccato il palo, ho preso, l'ho smontata, l'ho scesa un pochettino, l'ho riagganciata e immediatamente mi hanno rotto i coglioni. Allora ho preso e gli ho detto, beh, fate la cosa, ho pigliato bene in culo, gli ho detto, voi l'antenna, io me l'ho comprata, l'ho vero, 90, e io a casa mia vado benissimo. Cambiatevi quella specie di amplificatore, che tutti gli amplificatori che state comprando non ce ne uno sano, mi stanno mettendo gli amplificatori di quelli difettosi, pagatevele, io non pago proprio niente, gli ho detto, di tasca mia. Basta, ho letto adesso, dalle balle piene. E mi sono, io ho la spina di pesce agganciata, vedo benissimo, non c'ho nessun problema, è perfetta. Adesso l'ho preso e gli ho tagliato con la forbice, come ho fatto a quello che gli ha fatto saltare l'impianto di casa, perché si era attaccato a me, ha giubilato, tacchi, ora voi ha fatto le coppie, non vi credi quando mi rompe le palle da attaccare a un gatto. Adesso gli ho fatto la stessa cosa, a questo qui ho preso e gli ho tagliato il capo dell'antenna, ma denunciami adesso, fa un cazzo di lui. A chiamare le scomposte, lo chiami, così come vengono se ne vanno. Vabbè, quello sì. Ah, non ti può dire niente, c'è quello omologato lì, poi c'è anche il 2009, il 2009 io dici non funziona, glielo fai vedere. Dici stavo usando quello e mi si è bruciato. E non sto parlando. Dice, è venuto a casa, mi sta accusando che sto disturbando, quindi a un certo punto, siccome l'ha agganciato all'impianto, gli ho fatto il favore di agganciarsi all'impianto mio, e a un certo punto dice, essere preso per il culo, la parolaccia non mi piace per niente. Siccome i soldi l'ho speso io, ho tagliato con la forbice e si arrangia adesso. Se vuole salire sotto al tetto, si spende 1200 euro e si fa fare l'impianto come si deve, se non cade giù al tetto, il tecnico. Perché sarà molto difficile un tecnico salire da sopra a installare un palo. No, poi lui ha chiuso il passaggio per il tetto, ha chiuso, ci ha messo le tegole, ha eliminato la botola che c'era. Cazzo, io per quello l'ho dovuta mettere come l'ho messa l'antenna del baracchino, no? Quando vengono gli spiego tutto, e così come si viene mi si innandano, se vengono, perché ci vogliono i soldi per venire loro. Se questo qui soldi non ne ha, non penso che possa fare niente. Mi conviene comprarsi il televisore nuovo e l'antenna nuova, riapre il coso e se la piazza, a chi uno voglio avere, niente a che fare con queste persone. Manco grazie mi ha detto, ho comprato il partitore, il cavo che ho comprato per attaccare al partitore, ci ho preso 50 euro e non mi dico manco grazie, e più dopo dice che c'è un turbo, se è la mia non gli faccio niente alla mia televisione. Tu glielo dici, io quando vengo io ci ho costato l'apparecchio che ho comprato, la verità, nel periodo del lockdown, io me l'ho dato. E ho lanciato, fate le prove mie, anzi non ci bisogna neanche di salire con l'antenna, questa è la TV, la mia agganciata sopra, dove l'ha agganciato lui, io non faccio mai con la striscia, quindi i problemi sono i suoi, non i miei, che si arrangi i ricci a un certo punto. fulo e fargli un favore, l'altro lui che se l'è preso a pesce in faccia, non mi piace per niente, non ha preso manco la lira e mi aggredisce. Glielo dice, guarda che già fa la fine di quella lì, come si chiama? E c'era in TV l'altro giorno che pratica picchiava la pittuale a sua casa. A parte che non ci vengono, perché mi hanno già controllato, a me quindi lo sanno che io non disturbo. Hai capito cos'è il discorso? Ma se dovesse non venire, a parte che gli chiedo il mandato, perché se no non li posso mai entrare, perché io questo giorno non ne pago più. Quindi non so se ci vengono le arpette che stanno suonando. Ma senza mandato non possono entrare. Ci vuole mandato e siete proprio sicuri che vi trovate, capito? Così, ma siccome non sei il tipo, quindi si può attaccare al tram, si può attaccare. Tutti noi troviamo il condominio strano in casa. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Io e Natalino. Pantone, mi puoi dare un controllo con lui su Santiago e radio, grazie. 9:10, passato 12, per esattezza, la 5 è verificata. Scappa, ti ringrazio. E niente, non c'è problema. Sono tornato. Chi è là? Io sono. Natalino. Ciao, chi è? Attenzione Natalino, mi ascolti? Sì, ti ascolto. Già. Mi puoi dare un controllo Radio Santiago? Grazie, che sto provando il Luis. È radio fortissima, bella. Fondo scala. Ti ringrazio, un attimino solo. Ma sto usando quell'apparecchio omologato, quel Polmar, quello piccolino. E l'ho fatto la fare quel giorno a comprarlo, mamma mia, 80 euro buttampati, bajo 22 euro di cose mi hanno messo di tasse, la parecchia costava di meno, 22 euro di spedizione, manco modo, e se avessi saputo l'avrei manco ritirato, sapendo che un apparecchio del genere, meno male ce l'ho regalato. Cosa vuoi che ti dica Antonè? Purtroppo gatta, se sono così questi apparecchi non ci puoi fare nulla. Comunque la radio è pessima, è perché? Rimane bassa, già ti sento chiaro, rimane bassa, capito? Non è che sia pessima, no, pessima, ma l'unica cosa ci vorrebbe un bel microfono amplificato, che ti buschi. Quando mi metti nel di più 4, vieni, o se no un DM1000, se c'hai una carcassa di DM1000, io ce l'ho già pronto in pratica. Il cavo già con lo spinotto, se dovete trovare solamente la carcassa è un DM1000. E dove cavolo la trovo? Tutte cose difficili lo stai dicendo, Antonè. Ma non me ne ha fatto nulla queste provvisioni, o mi... Non hai capito che non ci viene più a rompermi le palle quello? Che gli è successa una cosa un po' così. Ho capito. Io devo dire ce l'ho, però c'ho la carcassa che è spaccata, capito? L'avevo prestato e a questo amico mio, quell'apparecchio là con il microfono, e evidentemente salendo e scendendo con il sedile si è messo sopra, non se ne accorto e ha cribato la plastica, ma ormai il circuito è integro, non c'ha niente, anche il resto. Solo la carcassa da cambiare, cioè. il microfono funziona. C'è l'attacco a 6, è a posto. Peccato che non va bene di radio, se no me l'avrei messo in macchina, questo che è piccolino. Devi attaccare il coso. Se c'è un M95 va bene, funziona lo stesso. L'unica cosa bisogna fare il collegamento e basta. Se c'è un M95 con microfono amplificato va bene uguale, non è che ci sia tutta questa grande differenza. Vedete, un microfono palmare preamplificato e va bene. Se gli metti i microfoni preamplificati li accetta. Sì, i microfoni preamplificati li accetta. Secondo te le mie non è preamplificato? Usciva benissimo, addirittura l'ho voluto diminuire di amplificazione dall'interno perché sentivo la voce mia nella colonnina, però usciva benissimo, capito? Allora l'ho diminuito proprio a livello giusto, usciva benissimo, radio 5 è amplificata, era perfetto, era. L'unico modo per poter utilizzare la baracchina così, se no se ti buschi qualcuno che abbia un mobi come il BB40 che non se ne fa niente, che c'ha il microfono spaccato, gli attacchi quello. Sì, ho capito. Oppure mi busco un altro di questi omologati, però che vadano bene, bisogna sapere però che si può andare. Sto dicendo, no? Il mobico MB40 va benissimo perché io l'ho collegato e funziona bene, va veramente bene, figurati. Anzi, utilizza la eliminazione che c'è l'apparecchio stesso, perché l'apparecchio c'ha la uscita autovolso, c'ha, capito? Io capisco, capisco. Ma che apparecchio del cacchio, se l'avevo saputo non avrei comprato, era così. Atari, ho fatto anche quello sbaglio. Quindi figurati. Ho regalato anche una cosa, gli ho regalato una cosa. C'è l'Antonello, c'è l'acqua barattino. C'è l'apparecchio con la canna, la pesca, il capo, che gli ho regalato io, gli ho installato in villa. Giù dove lavoravo io. Capito? Adesso non so. Con questo periodo qui non sto facendo niente, cosa vuoi fare? Sta piovendo, cosa cazzo fai? A prendermi da un malanno. Quindi non ci sto scendendo giù di là. Per niente. Come va? Se ti rimuovi giù. Capito, non c'è problema. Per il momento mi tengo questo e aspetto un po' se viene qualcuno a rompere la spola. Aspetti, se viene qualcuno a romperti le palpebre. Sì, ma non penso che ci venga nessuno che l'intervento di qui di lì vuole pagare, dove ci vogliono i soldi, io ce l'ha nonna. Ah beh, quello, se non c'ha soldi a fare i suoi, insomma. Sì, infatti. E poi mettono la buca a lui, che io non mi so fare nessuno, a me mi hanno già controllato, non ci verranno neanche. Se lui va lì, magari gli dicono, guardi, è quello, l'abbiamo già controllato e non si turba. La colpa è dell'antenna sua, se cambi l'antenna e vedrà che lì riceve bene, ci sarà. Perché se veniamo noi li mettiamo la buca lì. Infatti, ce lo credo. Sì, infatti. Poi ve ne no, che vieni su un cazzo, un po' di apparecchio grossi, quanti watt da? Un watt, li da? Quasi 2 watt da, anzi 2 watt giusti giusti tira fuori quell'apparecchio, di più non te la da solo 2 watt. Se lo aumenti a 6 watt non ti esce più di cosa, esce solo in cosa, in AM non esce più, esce solamente in FM, come mi ha fatto a me. Poi ho preso e mi sono girato le balle, capito? E non ho modificato manco i canali perché non ne sbatteva più niente. E a un certo punto ho detto, se tocco cosa dei canali, gira e gira, ce lo butta l'apparecchio da mondetto. Ho preso, ho lasciato così com'era, ho lasciato la modifica dentro la scatola con le istruzioni d'uso e basta. Chi non vuole se lo modifica da solo. Infatti, che merda che esiste. Sì, ragione e si prenderà la roba che gli serve. Il televisore gli mancano i colori e non si vede un cazzo. Da poi va a Rucoso, lo sai cosa, 15 anni fa che l'aveva comprata Adriano al padre, preciso, e ha detto questo lo sai cosa c'ha 15 anni. Già non credo che ti sia colpa. Sì, ma le cose, quelli che vecchi non vanno più bene, non si vede più manco un canale. Devo comprare il decore del modello nuovo di WBT3 e poi anche, c'è anche un'altra sigla, c'è. Perché hanno cambiato il nuovo, tutto hanno cambiato, capito? Io mi sono trovato fregato col televisore, quello ai cassetti pubblici, perché mi avevano detto che questo è il WBT2, invece dove mi mangiano. Come ero, è passato da MPJ4 a DVB-T2, mi sono accorto che era DVB-T il televisore, quindi in pratica mi scrive la sigla ma non vedo i canali, per niente. Manculo, ci vuole decore, messo dietro e viene 30 euro ai cinesi. L'avevo trovato io un po' di tempo fa un decore, 4,50 euro l'avevo pagato da Bricome, c'era solo uno, l'ho preso al volo. Se capita che li mettono di quei decore, me ne compro 5-6, me ne compro di quelli. Da 4,50 euro. Io ho capito. No, il mio funziona bene senza decoder né niente. Il televisore che avevo comprato, perché funziona, prendo tutti i canali, tutto quanto. Quello lì sì, li prende tutti i canali, però li accorti perché è vecchio di 15 anni quel decoder, capito? E poi era attaccato, bello che era attaccato all'antenna mia, era attaccato, e pigliava quel filomatese, ma io. Vabbè, se va, c'è il televisore vecchio, in quelli modello vecchio, là c'ha un televisore LCD, che ci va piazzato. Cosa ne so, un televisore che c'ha anche i colori rossi, vuole cambiato, gli mancano dei colori e si vede tutto ombroso, non si vede bene, cazzo in più, piglia a colpi, che cazzo, ci vuole un televisore nuovo e l'antenna nuova soprattutto, perché io ti ho tagliato il cavo, perché quando io ho speso i soldi per comprare il partitore e il cavo, anche il cavo li ho comprato, e se buttamelo giù, me l'ho fatto buttare giù e l'ho agganciato al partitore, no? Io, quindi l'ho attaccato all'antenna mia in pratica, all'antenna che sto guardando io. E bene, va bene, non lo stupavo, mia va, dicevo, ma che cazzo, hai dubbiato pure a voi, da un sacco e mi hai sbagliato un cavo, beh, dato che non mi ha dato manco 5 lire per i soldi che ho speso, adesso ti compri l'antenna nuova. È stato bene. È l'unico modo a questa persona, e quando gli fai fa pure, poi gli danno un coso, le vogliono una mano, poi dalla mano al braccio passano, capito? E pretendono, come è successo a me. Io gli ho comprato l'antenna, avevo pagato 25 euro, quella HD, quella pesante, quella che ci ha visto ai tre stili al centro, in pratica. Quindi figurati. Proprio quella HD che si vedono tutti i canali HD, ne ho comprato quella, l'ho piazzata, non ho fatto spendere neanche una lira, a voi immediatamente, dopo quant'è, dopo 6 mesi è arrivato questo vento a 120 km/h e ha girato l'antenna, perché il palo è quello che c'è, è fine, è vecchio, capito? E quindi aiuti ad attaccarsi a pompa. E tra l'altro mi ha detto, quando sei stato il tecnico, ho detto che li voglio indietro, dopo quella l'ho pagata io. Invece non c'è, il tecnico non l'ha mandato, quindi vuol dire che già vedo. Adesso faccia quello che vuole, che da poi arrangiamo i conti. Qua non c'è venire più, se no io. Questa qui se lo sbatta, c'è anche il tratto di guai attaccato qua, figurati la potenza che esce. Capito, allora, penso che l'apparecchio, ma per carità, non so come abbiamo fatto a costruire quella con l'apparecchio lì. Dopo che ti scappano, purtroppo, chiamo in mano ai salienti, devo fare il cellulare per me, mi ha accurato l'apparecchio, tanti no che è scasso dove vengono, ma penso proprio che venga, eh no? Se non fare niente, che gli hai staccato il capo, sta tranquillo, no, non chiama nessuno, se chiama il tecnico e... è stato anche lui, diciamo, ci viene, a meno che non si aggancia al pacchettone magari che l'hai messo su, ma se sei a casa tua è bello che è fregato. Ma qui ruo ha piazzato in casa sua, l'ho piazzato nel palo dell'antenna mia del baracchino, il partitore qua, esco dalla finestra e vedo il partitore. No, hai fatto bene, almeno si attacca tu, altro non si attacca. Poi si è tagliato il capo bravo, mi sta proprio dare in cazzo io, ma vorrei già un po' carino. Allora, si fa installare l'antenna nuova, cosa volete dire? Se no passa il cavo da lì al palazzo di Adriano, si compra 60 metri di cavo e lo butta nel palazzo di Adriano e si piazza l'antenna lì dove c'è il coso là. Dove abita Gavino, in pratica c'è capito Pietro, un amico mio che lavorava insieme a me e avevano fatto un impianto nuovo, l'avevano fatto. Sì, già lo so, io e Adriano assolutamente non li passare né cave né niente, ha giustito mi a quello, perché siamo andati da Adriano a controllare ieri sera, siamo andati per vedere se aveva fatto qualcosa male lui, e cazzo mi aveva questo televisore di merda, ma io non ci voleva fatta, e il becco del cavolo di 15 anni fa, cosa gli fai? Lui l'antenna nuova era un televisore, lui. Sì, allora a me che a fare il gioco mi era capitato di andare e non voleva, salgo sopra il tetto, mi porto i due portatili, ho lasciato Giuseppe di Uncino, io sono salito sopra, ho sollevato il palo, ho puntato bene l'antenna, ho detto si vede benissimo perché gli avevo avvicinato il mio televisore, quello HD. Ho preso e sono sceso giù, quando sono sceso giù mi fa come sta agganciando il mio decoder, l'ho agganciato, vedeva la metà dei programmi e ti ascolta, ha detto guarda che devi cambiare il coso, ho detto il decoder, se no vedo il televisore costa la fessa ieri, ho detto. E tu vai e compratelo, io e adesso mi ha risposto lui, ah io non devo comprare niente, io voglio la roba come la prima, allora gli ho detto, fa una cosa, gli ho detto, fai a fanculo, tu hai impianto, gli ho detto, dato che te l'ho fatto gratis adesso, non voglio manco la lira, chiamati un tecnico, e se non ti compri il televisore, ti avevi visto che compri si vede benissimo, quindi io ho il televisore HD, siccome fa poco devono staccare, spariscono tutti quei canali lì, non devo uscire in testa per te, gli ho detto, ma che avvaggio, gli ho detto, e mi sembra che si è comprato il televisore smart TV e vede benissimo adesso, non mi ha più chiamato, non mi ha più detto niente, quindi volevo già vedere, e ancora l'antenna è lì, agganciata lì nel palazzo che c'è lì alla cementeria. Ai taglienti bisogna trattarli a pesci in faccia, come lui, cazzo voleva comprarli il decoder, e non è per quello che mi sono incazzato, che devo comprare il decoder io, secondo il capo lui, ha giubilato e mi ha giudicato il capo, non sono l'altro. No, tu non devi comprare proprio niente, ma va così, vai, lascia bellino. Vai, ti avvangi, avevo detto, vai, avvangi, cazzi, adesso ti sto staccando anche il cavo, dato che mi hai offeso così. Ti chiami il tecnico, ti avvangi, io non te ne voglio niente, sei tu che devi a me. Quindi, questo va a te. Infatti, avanti capo pure un battitore, pongo un macchino a remina, lo posso dire un battitore. E ti conviene così, gli metti un maschio, no, non c'è bisogno di maschio da femmina, gli compri quel mamellotto, già te lo fa Adriano, con gli attacchi, quelli satellitari, e capito? Poi lo lascia bene con l'asso vocalizzante, così almeno si è a posto. Non le mettere fino a otto maschio e femmina al TV, si arrugginisce subito. Invece il mammellotto con quei due spinotti sei perfetto, sì, non si arrugginisce un tubo. E dura anni, anni e anni. Io ho capito. Ma se non lo lascio il partitore e basta. Adesso me lo riattacco al palo. Bene. E lo lascio così. Tanto lui non si attacca più al mio. Questo è poco ma sicuro. Meglio così. Io l'avrei attaccato tutto il partitore. Adesso si è appeso lui, se piove tra l'esistenza l'acqua dentro e si rovina. Quindi ci metti il mabellotto, ci metti che farà la mano Adriano, ci metti quello e basta, e congiungi tutti e due i cavi. No, ma non c'è bisogno, adesso lo fisso, e adesso me lo faccio, dato che ci sono. Lo fisso, c'è da fare per attaccarlo al palo, me l'ho attaccato io per tagliare il cavo. Ah, me lo fisso e da chi non si muove più, anzi a tancarlo di con una faccetta così non si può più aprire. Ok, gli attacchi la faccetta, gli attacchi così rimane agganciato al palo in modo che sei più tranquillo. Beh dai, adesso vado a farmi il lavoretto, ci sentiamo più tardi ancora. Sì. La cosa più tardi. E chi è? Chi è? Ciu. Ciu che ciu. Così c'è qualcuno all'ascolto? Sì, Natali, ci sono io. Stavo facendo un lavoretto all'antenna mia della televisione. Vabbè, così esco di tempi. Questo ogni tanto che mi ha già troncato un cavo, ha visto, bravo Luisa, mi ha rompito le palle, è rimasto. Adesso come fa per il televisore questo? Non lo so io, il partitore e il capo sono i miei. Sì, ma ti fai odiare tu il casato, le peggiori le cose. Sì, vai su WhatsApp, va. Stavo fissando quel partitore e gli ho messo anche le nastre davanti per non potersi aprire lo sportellino, me la stavo fissando e così è a posto adesso. Ah beh, io così, se c'è lo sportellino hai fatto bene a metterci la presa davanti, almeno rimane tappato, se non ti entra l'acqua dentro e si arrugginisce. Se lo fai come ti ho detto io, glielo ti vai da Fusaro e prendi quei tre pezzi e così ti partitore e dacci i capetti assieme, sei a posto. Ah vabbè dai, è già fatto, quello lì non entra perché lo sportellino non si può più aprire adesso che gli ho girato intorno il coso, la fusolata, quindi è tutto. Vabbè, meglio così. Mi ho tolto anche il pezzo dello spezzone che è abbassato, quello che mi ho tagliato con la forbice. Allora, adesso si attacca al Kaiser. Praticamente si deve comprare. tra il televisore nuovo e l'antenna nuova soprattutto, perché lui a scrocco da me non ne vede più. Se lo tenga il cavo. Adesso se la gara, ma se ne tocca le tegole. Togli un po' di tegole, sale sopra e si installa il palo, se non si la gara. Tanto che non venga qui, perché se no busca pure, mi cazzo. Se vengono che ti chiudo il pugno a bocca, cazzo nel cavo, il cazzo arriva di dentro nel cavo. Non devi manco suonare assolutamente, qua non si fa più vedere. Ma chi si fa di si sbaglio, hai sbagliato voi, appesso. La carità perca. Questi codomini. Lei c'è di Zinzi. Dimmi. È all'ombra. Allora. Come andiamo? Ascolta, mi senti? Bene. Per andare peggio meglio così. Cioè sono un po' preoccupato perché c'è mia figlia a Bologna con questa situazione, un po' sono preoccupato, dico la verità, anche se lei cerca sempre di dirmi dai, sì c'è allagato, ma noi siamo al secondo piano, quindi siamo più tranquilli, dai. Finché non defluisce l'acqua, digli di non uscire da casa, a Manuela, capito l'hai Gianni? Già fatto, già detto. Ok. Infatti stavo per telefonarti a dirtelo che è un casino lì veramente. E meno male se ha fatto un po' di spesa, c'è la spesa in casa. Però dice che già si può uscire per fare la spesa. Ma lui non uscire, non ti fida, che basta che strarichi qualche fiume, qualche cosa e te la trovi di colpo l'acqua in casa. Infatti. Se c'ha roba in casa che c'ha la spesa a casa è a posto. Bisogna lasciare che defluiscano le acque e che non piova soprattutto, cazzo. Ma è tutto inondato, un casino, capito? Non so che è tutto inondato. Sono morte parecchie persone. 9 persone e 40 dispersi. Dimmi tu. Casino. Un po' di acqua. Questa lì al secondo piano già è tranquilla, là. La figlia lì è in Emilia Romagna. E allora, a Bologna. Minchia, Sai che noi siamo fortunati a Sassari, mi sa, Grazie, quel cuoco male di Luca. Parlai con Muro, Decidi tu, vuoi parlare con Muro? Adesso te ne abusi tu, perché ce l'ho omologato io, eh? Ma sei omologato, io o no? Te ne stai abusando con quel che dà fastidio. E quello con questo mi sono sempre fare. Kurt sta piangendo, cosa va? Kurt, vieni qua. Allora, sentito l'odore di femmina. Giù. Picco quel porco di pomponi. Allora, meno male io abito in alto, non mi succede nulla qua Luca. Una volta è arrivata una passata l'acqua, scendo in garage e togliere la moto. Avevo già 20 cm di acqua giù nel garage. Tutta la fogna è stata dai tombini è stata tutto più in merda era. Ho preso, ci ho rimesso la moto dentro al garage e ho detto via dire il culo. Io capisco che ne hanno bisogno, ma non è troppo, È venuto qui e si è messo due zampe sopra me. Ma non è che anche lui è cocomane oggi? Qua è cocomane, è vero che si può cocomane. Vieni così, un cazzo. Quindi Natalia, è andato a cocomane di Pomponio. Ce l'ho poco fa io. Vai. Allora, vai, me lo vai. Beh, Antonello. Ciao a tutti, ciao Natali, ciao Luca. Buonasera. Ciao Fra. Ben sentito, salutoni. Ciao Fra. Allora. Natali una ne ho preso, orata, gaba, bradè. Frexe! Una piccolina, 900 grammi, gaba, un mormorone. Ma sei andato male. Me la sono salito perché stava cominciando a entrare tramontana, greccane, quindi cioè, stava piazzando un vento e l'ho ritirato, e poi per un bel freddo. Stai ascoltando col formal omologato? Ah, va bene, vai bene, 9.10 radio Super 5, la radio non è un granché, però già va bene, dai. Compatibile, beh, Lugariega, beh, va bene Natalie, come mai sto usando quello? Sì, già te lo dico per telefono, ma giù via Dunghi se mi ha tagliato il capo di Lanzetta. Ma perché non ce la cambia questa televisione, questo qua, questa televisione tutta la vicia, buh. Va un decorso di 15 anni, e al televisore gli mancano i rigurori, cosa cazzo si sta chiamando? E si dice io lo dico, vabbè, avanti ha giudicato l'antenna così, a crocco questo televisore non ne vedi più. Poi faccia quello che vuole. L'importante non venga qui a suonare il campanello, se no mi dice con le mani. Mi sa che sta aspettando che la compri tu la televisione. Cava cava, bebe, andiamo qua. Se tu che ne dovevo comprare le cose io, e non è pa' chi se ne ha giudicato un capo. Dallo partito rimedio, dai crocco non ne vedi più televisione, te lo dico io. Anzi, ne devi fuggire che è meglio. A chi con me questo a pezzo fuori. Che casino qua, un ribus qua quella zona, ma veramente. Bebe. Vabbè. Mi dici da quanto era di cranga? Dove ti dica? Vai Luca, e Luca non vè, riprenda Tony. Io sono qua. E via, c'è tutto stato con casino. Non te lo dico, arrivo da vita poi io, cazzo, intanto vai me. Mi legavano 5-6 antenne, cazzo, me ne rubavano uno o due. Ma l'ultima volta l'hanno picchiato forte, l'hanno picchiato. Poi l'hanno sgozzato dopo una settimana. E ha finito di rubare. Ma veramente lì è un ribus proprio, ho capito Antonè. Un casino, eh. È sempre questo di sopra che disturba. Bah. C'è roba vecchia, antenna vecchia, backover vecchio, cioè. Perché non se la compra la televisione? Costa una cazzata, che è? Ma non lo si viene a farma da un colpo, risponda al telefono. Raga, ma aspetta un attimo, dai, riprendo. Scusa un attimo, Antonè. Cento lo vedo questo televisore dello Spin. Ed è MD lo stesso. Uno è 30, 40 e qualche cosa, l'altro 32 pollici. Quindi a Puglia se vuole comprarsi il televisore. Cosa lì, dai. Allora, andiamo a vedere. Non so. Ah, io sentito che ha ripetuto. Ce le poi avevo. Ma c'è l'eco, un po' ci dovrebbe essere. No, io stavo dicendo a te perché tu hai ripetuto quello che ho detto io. Ho detto cosa c'è l'eco? No, non c'è l'eco. Ah, capo, lo tolgo perché magari può dare fastidio, capito? Cava cava, se no è così l'eco va. Attenzione, canale 10, si ascolti. Devi dire cava cava. Cava cava. No, scusa, ma non ti si avvicina a te. Come lo fai non ti si avvicina? Devi dire cava cava. Più o meno. Aiuto, riprendi la lezione, non si ripeti. Aspetta, via, aspetta che l'ho tolto, aspetta. Aspetta che l'ho tolto. Questo è Ruiz, come mi ascolti, cambio. Bene, bene, 9.30 qua. Aspetta che stacco. 9.30. Ciao ragazzi. Vabbè. Hai visto il cavo? Sì, visto. Già è bello, sì. È bello, ma hai capito. Già capito, lo sai. E che aveva avuto quei modelli lì con i coperchi in legno addirittura. Sono belli, ma occupano troppo spazio, già capito, troppo spazio. Ah, ma lui è il numero uno di quei modelli lì, dai. E lui se non viene, è troppo bello anche come apparecchio. Cioè, si presenta bene davanti. L'hai visto l'orologio, l'ho fatto vedere mentre funziona. Sì. Poi se lui non lo sa usare non è colpa mia, cioè, ci sono le istruzioni. Ti ho scritto che ci sono le istruzioni. Sì. Tutto crocero. Cosa lui? Ci sono anche le connessioni fatte, c'è lo schema della connessione. Cos'è a 4? No, è particolare, dai. Aspetta, te lo dico subito, non me lo ricordo. Sì, a 4, però per fare il collegamento tu mi mastana ce l'ha data, dai. Abbiamo fatto con Franco California e non riuscivo a far trovare i contatti. Dopo un po' ci siamo riusciti. Addirittura. Perché mi pare che un filo non andava collegato, boh, non mi ricordo adesso come erano, due in parallelo poi sono collegati. Dobbiamo andare nel cosa. Io ho messo 60 nello Iaesu. Adesso lo voglio provare, mi sto facendo il cavo per provarlo nel 7300. Una volta che sai le connessioni non puoi sbagliare, soprattutto sull'alimentazione, devi stare attento, ma le connessioni sono accattate. L'hai scritto dell'alimentazione? Una a me. Miau. Cioè, bagara. Proviamo in banda laterale. Non ce li ho qua in banda laterale, su questo non ce li ho, perché posso buttare là. Ah, ho capito, vabbè, ma comunque va, non c'è problema. Era appena duro il cursore, ma le... come si chiama? Il deviatore, là, nelle bande laterali, gli ho messo un po' di spray, adesso non l'ha mollito. Comunque l'altro giorno in banda laterale sono andato con questo qua, che si è centrato al centro e tutto, non ho mosso nulla, cioè com'era l'ho lasciato al centro, si sentiva perfettamente, ma era un HF. Ma tu ne hai... vabbè, te lo dico dopo. Sono di rosso. Non so quale posto me l'avrà mandata. Quindi Luca, tutto ok. L'FM non ce l'ha, deve adesso, non sa che più devi droppare scatole. AM, USB, USB. Sul 200 di Cara o sul 100 di Cara, lo dico, parata di 30 perché la mia sono 40 e 40. Luca, ci sì. Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno?